Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Come sempre, due informazioni rapide di servizio. La prima è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it. La seconda informazione di servizio è quella che vi rimanda al mio blog, Guardie o Ladri. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Attraverso un motore di ricerca è altrettanto facile. Sapete che lì tratto di quella che è la mia passione civile da anni, vale a dire l'economia criminale, la criminalità organizzata. E ancora una volta oggi parleremo proprio di criminalità organizzata al sud, in Campania. Sapete che in questi giorni, in queste settimane, molto si è discusso, molto si è parlato, molto si è polemizzato di quello che è accaduto in un quartiere nel rione Sanità di Napoli con quel video shock mandato in onda per volontà della Procura della Repubblica di Napoli. È intervenuto il ministro Maroni, con il quale non mi sono assolutamente trovato d'accordo, nel momento in cui ha detto che quel video non andava mandato in onda. E perché mai? Io lo manderei addirittura in onda a scuola con degli psicologi accanto, lo farei vedere tutti i giorni, perché di mafia, di criminalità organizzata non si parla mai abbastanza e soprattutto, lo sapete, è un mio pallino fisso, non se ne parla al nord, dove la criminalità prospera e comanda. Allora, oggi ne parliamo e parliamo della Campania con due volti della stessa medaglia. Da una parte lo schieramento, la legalità che scende in campo in maniera molto forte, provocatoria, shock nel comune di Arcolano. Dall'altra parte un altro comune senza soluzione di continuità da Napoli, che è il comune di Portici, dove un sindaco e il suo addetto stampa ricevono l'ennesima simpatica attenzione dei quaquaraquà della camorra, di questi esseri indegni che con la loro protervia sperano di ammansire una società civile che invece è dalla parte della legalità. Ed è per questo che io do innanzitutto il buongiorno al sindaco del comune di Ercolano, Nino Daniele. Buongiorno Daniele. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Al sindaco del comune di Portici, Vincenzo Cuomo, va il mio buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E all'addetto stampa del comune di Portici, Carlo Tarallo. Buongiorno Tarallo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io direi di partire proprio da Tarallo in questa nostra chiacchierata sulla Campania onesta che fa i conti con i clan della camorra. Dovete sapere che, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione parecchie volte, che non esistono soltanto i Saviano che vivono sotto scorta. Purtroppo la punta di un iceberg di cronisti che quotidianamente in Italia vengono minacciati, e vengono minacciati seriamente coloro i quali operano sul campo. Ed è il caso appunto di Carlo Tarallo, che ha detto stampa di un comune, il comune di Portici, dove la legalità è ovviamente la parte preminente della collettività che viene amministrata, ma dove purtroppo la camorra è forte. Allora Tarallo, partiamo da lei. Ci racconti che cosa è accaduto alcune settimane fa? È accaduto 10 giorni fa che al mio ufficio è giunta una lettera, un plico. Io l'ho aperto e all'interno ho trovato un proiettile di Kalashnikov 7,62, quello che poi mi è stato detto dagli inquirenti essere un proiettile di Kalashnikov. È una lettera di minacce indirizzate al mio sindaco, al sindaco Cuomo, appunto, per il quale lavoro. Ovviamente la domanda, come dire, è banale e spontanea, ma per far capire ai nostri radioascoltatori, come ci si sente quando si riceve un così simpatico omaggio da parte di gente senza anima e senza ritegno? No, è una cosa che colpisce veramente molto, insomma, è inutile negarlo. Innanzitutto si pensa a quella persona che ha dedicato tanta, ecco, come dicevi tu, della sua attenzione, no? Nel confezionare questa lettera, nell'inserire il proiettile, insomma, si vedono queste ombre che ignobili, che poi gettano chiaramente nello scompiglio le famiglie, le persone che ci sono più vicine. Assolutamente, assolutamente. Una sensazione di rabbia. più che di paura. Certo, proprio... di rabbia, sì, hai detto bene, effettivamente la sensazione che si prova è quella, e a volte è forse anche una sensazione di inadeguatezza, ma non della persona che viene colpita, ma l'inadeguatezza della società che dovrebbe essere la migliore rete di protezione. Allora, io direi di passare al sindaco di Portici Cuomo, Vincenzo Cuomo, perché la lettera era simpaticamente indirizzata a Tarallo, portavoce del sindaco, ma al sindaco di Portici per competenza, potremmo quasi dire. Cuomo, mi permetto ovviamente di scherzare con lei su questo, anche se la situazione non è assolutamente degna di scherzo, anzi. Ecco, Cuomo, una pallottola che viene mandata perché, secondo lei? Quali sono le attività che voi state portando avanti che possono dar fastidio? È una storia un po' antica, non era il primo episodio di minacce che sono pervenute. In questo caso, diciamo, c'è stata una manifestazione indiretta quando si è voluto colpire un addetto stampa, utilizzando anche strumentalmente degli episodi che erano avvenuti, diciamo, connessi a una dialettica politica abbastanza aspra che c'era stata in precedenza tra le parti politiche. Le iniziative, noi abbiamo abbattuto una villa completamente abusiva che era di proprietà di personaggi gravitanti, o meglio, appartenenti al clan camorristico egemone a Portici, e abbiamo confiscato anche il suolo, l'area di sedime su cui questa villa insisteva. Quindi sono andate alle ruspe, hanno buttato tutto a terra, e da quel momento, diciamo, si è compreso con grande chiarezza che da parte dell'amministrazione comunale non c'erano sconti. Poi abbiamo fatto una serie di attività, in verità credo che siamo stati tra i primi comuni a fare un'ordinanza in cui il sindaco firmava un'ordinanza e la motivava connessa al fenomeno camorristico. Cioè, più di un anno io ho vietato gli addobbi natalizi che ritenevo essere forme artificiose con i quali i clan camorristici durante il periodo natalizio raccoglievano soldi e raccoglievano sotto forma indebita e artificiosa il pizzo natalizio. Quindi ho vietato tappetini, stelle natalizie di tipo luminoso o di tipo florovivaistico. Certo. E poi c'è stato un episodio, insomma, abbastanza pure questo molto simbolico, perché durante i funerali della moglie di un soggetto detenuto che si ritiene essere il capoclan, durante questo funerale molti negozi spontaneamente, o meglio spintaneamente, io oso dire, hanno chiuso in maniera anomala le proprie attività, non abbassando normalmente la serranda come si usa fare, diciamo, nel meridione d'Italia, verso tutti i defunti, insomma, come segno di rispetto verso il defunto in quanto tale, al passaggio del corteo funebre, ma hanno inteso chiudere per l'intera giornata in segno di rispetto verso questo lutto, quasi proclamando una sorta di anomalo lutto cittadino. Io ho sanzionato questi negozi e gli ho fatto una sanzione con cui gli ho chiusi per 2 o 3 giorni. Ecco, ma io volevo chiederle questo, sindaco. Molto spesso si legge di quella che è la pervasività delle cosche, dei clan, delle 'ndrine, chiamiamole come vogliamo a seconda del luogo geografico da cui partono. Ma non operano ovviamente soltanto al sud, da qui a Milano, voglio dire, ne ho scritto Dio solo sa quanto sul Sole 24 Ore. Ecco, però quello che colpisce è proprio la loro pervasività nel momento degli appalti pubblici, vale a dire quando viene indetta una gara, quando viene vinta una gara, e poi in quello che è il momento del subappalto, quindi il movimento terra, il noleggio a freddo, a caldo. Allora, su questo la Camorra è bravissima e abile, non soltanto in Campania ma in tutta Italia. Allora, le chiedo, dal punto di vista della trasparenza degli appalti pubblici a Portici, qual è la situazione? Ma a Portici noi abbiamo un protocollo sottoscritto, tra l'altro moltissimi comuni, tra cui anche il comune di Ercolano. Ne approfitto anche per salutare il mio amico sindaco. Certo. Romano, noi abbiamo sottoscritto un protocollo che prevede, diciamo, un'indagine a 360 gradi non solo sull'appalto ma anche sui successivi, sulle ditte collegate a quell'appalto. Ecco, ma ne avete cacciate alcune di queste ditte? Vi siete intervenuti? Ne abbiamo cacciate alcune, o interviene la prefettura quando c'è proprio l'interdittiva, diciamo. Certo. Tipica. E poi noi, proprio per evitare diciamo delle difficoltà interpretative, ci siamo dotati di una sorta di regolamento interno, quindi abbiamo fatto un atto deliberativo con il quale abbiamo creato delle maglie ancora più strette. Quindi all'interno del capitolato d'appalto spieghiamo, mettiamo una serie di norme di carattere comunale molto ancora più stringenti rispetto alle quali, da dove ci accorgiamo che c'è stata un'attività anche di pagamento di pizzo, noi espelliamo la ditta dall'appalto e ci facciamo anche restituire i danni. Bene, allora io, cari radioascoltatori, vi ricordo che noi teniamo accesi i riflettori su queste vicende, perché solo così si può creare quella rete di protezione che spesso lo Stato non è in grado di garantire a chi vive sul campo e tutti i giorni affronta problemi come quelli che ci sta raccontando il sindaco Cuomo. Colgo l'occasione per dire al sindaco Daniele: rimanga lì, perché ovviamente la sentiamo poi domani, caro sindaco, non si muova. Tarallo, un'ultima domanda a te, e intanto ringrazio per il suo intervento il sindaco Cuomo. Qual è stata la solidarietà che è arrivata, ma non di facciata, voglio dire concreta, dei nostri colleghi? No, c'è stata una bella solidarietà di amici, di colleghi, colleghe che mi hanno sostenuto, sono venuti a casa, mi hanno incoraggiato ad andare avanti, insomma, non fermarmi. E questo fa piacere, perché senza questa catena, senza questi anelli di legalità e questa rete di protezione, come amo chiamarla, di cui ci onoriamo noi di O24 di far parte, si resta purtroppo drammaticamente soli. Ringrazio Tarallo per la sua testimonianza, il sindaco Cuomo di Portici, e rimando domani, cari radioascoltatori, alla seconda puntata su questi temi con il sindaco di Ercolano, Nino Daniele. Grazie in regia Filippo Aureggi e in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.